sotto questo sole ancora, ancora. Sotto questo sole ancora, ancora. La pelle brucia, brucia. La pelle brucia, brucia. Sotto questo sole ancora, ancora. Sotto questo sole ancora, ancora. La notte è lunga, è lunga. La notte è lunga. Mi sveglio tardi luna, il sole bussa alla finestra, smesso di rincorrere la luna. La pelle chiara scura, il mare che fortuna, la borsa di salsedina profuma, fuma. Già dalla mattina, relax, caffè, sex, buon dia. Chiamo le amiche, andiamo sulla spiaggia, l'aria brucia, bacia. Sono gelosa della gente già sulla battigia, faccia a faccia, questo sole che le bacia, bacia. Dai, dai, dai, dai, dai. Bye bye bye, bye bye. Prendi le scale e i bikini e lasciami due tiri, fai di fretta gli scalini. Dai dai dai, saluta tutti, bye bye bye, bye bye. Sotto questo sole ancora, ancora. Sotto questo sole ancora, ancora. La pelle brucia, brucia. La pelle brucia, brucia. Sotto questo sole ancora, ancora. Sotto questo sole ancora, ancora. La notte è lunga, è lunga. La notte è lunga, è lunga. Oh, voglia di sole, sole. Un lamento in te, la mia vita è un film. Un lamento in te, la mia vita è un film. Oh, voglia di sole, sole. Con l'amica chic, pure quella freak. Con l'amica chic, pure quella. Sotto questo sole ancora, ancora. Sotto questo sole.